Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno da Nicoletta. Il caldo è arrivato e si fa sentire. Nulla di nuovo sotto il sole, che dite? È il suo tempo, non lamentiamoci. Approfittiamo invece per concederci dei ritmi più lenti, ma direi non abbandoniamoci troppo a quella sorta di fiacchezza che anche può compromettere la qualità delle nostre giornate. Sarebbe un peccato non godere di questa stagione magnifica. Io sono Miles, lavoro con Ethan. Ethan... L'ex di Amanda, l'ex. Ah, certo. Sì. Certo. Tutto bene? Oh, sì. Mi è entrato qualcosa nell'occhio. Ah, io non lo sopporto, mi faccia vedere. È colpa del Sant'Ana. Prego? Del vento. È per questo che fa così caldo. Dice la leggenda che quando soffia il Sant'Ana tutti i patti vanno all'aria, tutto può succedere. Tutto può succedere. Allora, iniziamo a rinfrescarci nell'attesa che qualcosa capiti di buono. Un consiglio rinfrescante, occorrente, una radio, un paio d'orecchie e una lingua possibilmente del modello pieghevole. Ce l'ha insegnato Lisetta Landoni, la nostra maestra di yoga, nei giorni scorsi, quando, se vi ricordate, ancora non faceva caldo, perché qui a Essere Benessere preveniamo. Questa respirazione rinfrescante è ottima. Sì. Quindi ci sediamo nella posizione yogica se vogliamo, altrimenti su una sedia, però con la schiena ben diritta, quindi non infossati. Tiriamo fuori la lingua dalla bocca, attorcigliata, i testi dicono come una fogliolina fresca primavera. Ecco, in modo che la lingua formi proprio una specie di canale da cui noi iniziamo a inspirare, facendo anche un certo rumore, come se succhiassimo del liquido da una bottiglietta, una cosa del genere. Ecco, invece inspiriamo aria da lì, non dal naso, attenzione, solo dalla bocca, e poi espiriamo dal naso. Quando non si riesce si porta la punta della lingua sul labbro superiore e si lascia un piccolo spazio, proprio un piccolo pertugio, da cui si inspira da lì, senza problemi. Adesso tocca a voi. 800 24 00 24 24, consigli, idee, immagini, luoghi rinfrescanti. Chiamate, scrivete, twittate per evitare che il caldo ci faccia perdere la testa. 800 24 00 24. Ho chiesto aiuto al professor Giuseppe Alfredo Iannocari, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta, e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Professore, il caldo lo sentiamo tutto, ma ciascuno di noi reagisce in modo diverso. Io ad esempio col caldo mi impapero, ma c'è chi si sente affaticato anche a livello mentale, fa più fatica a concentrarsi. Sì, il caldo infatti fa in modo che l'organismo rallenti naturalmente le sue funzioni fisiologiche per contrastare il calore e mette in moto tutti quei processi necessari per raffreddare il corpo. Che cosa succede? Che le funzioni cerebrali risentono maggiormente dalla calura estiva a causa proprio del rallentamento e dell'affaticamento fisico. In particolare le funzioni che rallentano sono l'attenzione, la concentrazione e anche la velocità di elaborazione delle informazioni, cioè la rapidità con la quale noi elaboriamo i dati a livello centrale. Quindi non è una gran bella stagione. Infatti si dice che quando il cervello, no, il caldo ci picchia in testa, il cervello va in fumo, non è che prometta granché di buono. Anche perché anche perché va a toccare proprio i processi cognitivi che sono la base delle funzioni più importanti, perché questi che ho appena citato sono quelli che sottostanno ad esempio ai processi di memorizzazione, alla pianificazione delle attività quotidiane, alle abilità di risolvere i problemi e di prendere decisioni, oltre che anche la velocità del linguaggio, il ragionamento e l'orientamento. Però anche una buona notizia. Dai, questa, perché noi vogliamo tirare fuori anche i vantaggi di questa stagione, che è calda, ma qualcosa di buono ce lo farà, ci farà rallentare i ritmi e questo è una cosa buona. Ma che cosa migliora delle nostre capacità mentali? Abbiamo dei vantaggi indiretti che sono notevoli. Intanto il caldo fa sì che noi stiamo meno in casa e soprattutto allunghiamo la giornata, per cui per esempio la sera è più probabile uscire, quindi per frequentare amici, locali, teatri, eccetera. Per cui aumenta la nostra socializzazione, aumenta anche l'allenamento che noi facciamo nel parlare con gli altri, anziché impigrirci in casa. Quindi ha un vantaggio perché allunga le nostre giornate e mantiene il nostro cervello attivo più a lungo. Qualche esercizietto per il nostro cervello che in questo momento è surriscaldato? Magari possiamo aiutarci con... Io ho chiesto ai nostri ascoltatori di darci dei consigli, di suggerirci delle idee, ma anche di descriverci delle immagini, portarci in dei luoghi che si associano a quell'idea di fresco. E qui chiamiamo in causa la creatività. La creatività è una funzione cognitiva molto importante che ha il privilegio di stimolare il cervello, ma di non affaticarlo, per cui è un ottimo suggerimento, un ottimo allenamento per il periodo estivo. Ecco, se volessimo possiamo provare a chiedere ai radioascoltatori di formare delle immagini che diano la sensazione del refrigerio e di raccontarcele. Vediamo. Vediamo che immagine ci regala lei, che ce la chiede. Ad esempio... La testa dentro il frigorifero? La testa dentro il frigorifero, sotto una cascata fresca, naturale, oppure lungo la battigia? Lungo la battigia, magari seduto su una poltroncina gonfiabile in riva al mare. Scatenate la vostra creatività, proponetevi le vostre immagini rinfrescanti, ma naturalmente vogliamo anche i vostri consigli. Tanti ne avremo dei nostri esperti. 800 24 0024. Caldo, come caldo questo sole, come calda la tua pelle che si brucia sulla sabbia, anche il mio cuore caldo. Il caldo dalla testa, ma può mettere in difficoltà anche il secondo cervello. In estate l'intestino sembra particolarmente fragile, noi sappiamo bene quanto il buon funzionamento di questo organo sia importante per il benessere complessivo dell'organismo. Infatti l'intestino non solo pensa, ma ci difende. Buongiorno al dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno e bentornato. Oh, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Certo che ci pensa su e ci difende, devo dire, di solito in maniera estremamente simpatica e positiva. Talvolta, anche quando noi pensiamo che ci stia facendo qualche sgarro, no? Per cui appunto quando diciamo che d'estate l'intestino è più fragile, è proprio perché in realtà sta cercando, come dire, di eliminare qualcosa che ci dà fastidio. È classico che uno magari mangi il gamberetto avariato o abbia bevuto dell'acqua troppo fredda e dice: ah, l'intestino ha fatto le bizze, perché uno ha avuto ovviamente la sua scarica piuttosto che altro. Ecco, in quel caso l'intestino ci sta proteggendo e sta, come dire, allontanando da noi alcuni elementi, quindi a volte ci pensa bene davvero, no? nel comporre questa cosa in maniera sensata. Però è vero che il caldo e il freddo li sente, quindi abbiamo una serie di possibilità anche per migliorare questo quadro, che sono sicuramente simpatiche. Ad esempio si può educare l'intestino con un consiglio che noi abbiamo, che lei ci ha dato più volte e noi abbiamo sposato, che è il crudo vivo e colorato. Ah, fantastico, anche perché, dai, una delle cose per cui l'intestino fa le bizze d'estate talvolta o appare essere un pochettino più irriverente nei nostri confronti è proprio perché serve un minimo di equilibrio minerale. Allora, questo crudo vivo e colorato, un pezzettino di frutta o di verdura prima di mangiare qualsiasi altra cosa, in estate ben lavata ovviamente, ci porta ad avere un'acquisizione di minerali che sono sicuramente utili, dei microelementi. Tra l'altro lo dico perché... ormai molti associano la mia chiacchiera da immunologo comunque a qualche consiglio alimentare, no? Per cui io trovo che abbiamo l'orto in questo periodo che è pieno di insalatine fresche, di prodotti che possono dare davvero questo apporto di oligoelementi, le stesse spezie, penso mi viene in mente il basilico, la maggiorana, il timo, la santoreggia, che possono essere utilizzate, a volte coltivate anche semplicemente in piccole vaschette sul bordo davanti a casa, no? E ci possono aiutare ad avere un'azione di pulizia a livello intestinale e di equilibrio sui minerali. Invece i massimi minerali importanti sono d'estate è il potassio, qui non ci sono mica tanti santi, no? È uno dei suggerimenti più usuali che do alla gente, che anziché mangiare pane, cracker e grissini, si mangi delle piccole patatine bollite che sono ricchissime di potassio e di vitamina C. Ecco che quindi interveniamo su questo bisogno che a volte il sudore, la disidratazione ci portano, e riusciamo ad avere la possibilità di avere degli ottimi elementi. Quindi patate dalla parte sostituzione del pane, e poi anziché farci i bellini, nel senso che così evitiamo di farci di berci anche troppo alcol, sì. Però se togliamo l'alcolico al bellini rimane un meraviglioso concentrato di pesca oppure di albicocca. Uno si può fare un frullato di pesca o di albicocca, che sono tra i frutti più ricchi naturalmente di potassio, e quindi possiamo giocarceli e gioire veramente nell'assunzione di queste cose anche nel corso della giornata. E ultimo direi ricordarsi che quando c'è davvero un po' di fragilità eccessiva, un po' di probiotici, quelli che la gente chiama i fermenti lattici, sono sicuramente utili e possiamo farli. Anche perché il caldo non va mica demonizzato. Assolutamente, dai. Assolutamente. Noi oggi vorremmo proprio provare, con l'aiuto dei vostri, con l'aiuto dei vostri consigli e con quelli che arrivano dei nostri ascoltatori che già ci stanno inviando, professor Iannoccari, le immagini rinfrescanti. Ma che bello, dai. Per il loro, per ad esempio coi piedi in un ruscello montano. Questa era quella che avevo avuto io prima. Ecco, però si vede, vabbè, ma sei ispirato. Oppure in penombra con le persiane accostate, come ci dice Silvana. Poi ci sono i rimedi, perché un ascoltatore mi dice che ad esempio la medicina tradizionale cinese consiglia di non fumare, bere molto, tanta frutta e verdura, e di fare un po' di esercizio fisico. Dottor Speciani, in fondo quello che ci ha suggerito lei. Sono attrezzato anche per la Cina. Il nostro cervello, ci scrive Ernesto, assomiglia ad un semiconduttore, per esempio il computer, che più si riscalda e più rallenta la sua velocità di elaborazione. Ma noi oggi daremmo consigli per raccogliere ad esempio l'invito di Simona anche ai ragazzi che si stanno liquefando dal caldo e devono sostenere la maturità. Ci sono poi i ragazzi che devono fare gli esami all'università. Consigli del professor Iannoccari. Ma andiamo a sentire che cosa ci racconta Giuditta. Ci chiama da Modena, 800 24 00 24. Dottor Speciani, poi mi è venuta un'idea sulle cose da tenere in frigorifero, vediamo se ce la facciamo. Giuditta, buongiorno. Buongiorno. Io volevo raccontare che faccio una specie di altra cosa. Sì. Quando sono in casa che c'è molto caldo, io invece faccio finta che fuori ci sia molto freddo, sì, che ci sia tanta neve, che io sono così contenta di essere al caldino, che bello, cioè faccio... Mi trasferisco in inverno mentalmente e penso che che sia tanto bello avere questo caldo. Sì, anche pian piano mi rinfresco. Quindi Giuditta contenta. Si fa proprio accarezzare dal caldo e si fa, sì, nutrire questa sensazione, invece che avvertirla sgradevole. Mentalmente, professor Iannoccari, Giuditta fa un lavoro, no, un training, e cerca di trasformarla in un'occasione di ricarica. Ridà un senso alla percezione del fisico, per cui il caldo diventa un qualcosa che ha un senso, che ha un valore, perché nel suo immaginario il freddo che c'è all'esterno viene stemperato appunto da quello che lei percepisce. Ma questo è molto importante ed è anche il senso che davo prima all'esercizio che proponevo, cioè creare delle immagini, perché le immagini mentali che danno sensazioni di refrigerio sono molto potenti per condizionare il nostro corpo. Noi sappiamo quanto la mente può suggestionare, quindi avere un'immagine in cui noi ci rifugiamo nei momenti di eccessiva calura ci aiuta effettivamente a ridurre questa sensazione e a trovare un posto dove stare freschi. Paolo ci scrive: sul mio escavatore con l'aria condizionata a palla e Radio 24 tutto il giorno. A proposito di immagini, io continuo a leggere, ne leggerò nel corso della trasmissione, siete molto generosi con le vostre immagini rinfrescanti. Dottor Speciani, noi dobbiamo in qualche modo attrezzarci e attrezzare anche il nostro frigorifero di prodotti che ci aiutano a vivere bene il caldo, a resistere in modo bello attivo. Allora, dato che noi lavoriamo un po' sulle immagini, potremmo chiedere, dottor Speciani, ai nostri ascoltatori di mandarci una foto del loro frigorifero a essere benessere@radio24.it. naturalmente mandateci anche il vostro numero di telefono, che così ce lo raccontate in diretta, e il dottor Speciani butterà il suo occhio clinico dentro il vostro frigorifero per dire se è ben preparato al caldo. Dottore, ci sta? Ci sono, sono assolutamente concorde, però magari qualche consiglio l'abbiamo dato già, no? E poi qualcuno più utile ancora, perché i grassi sani e leggeri, tipo quelli del pesce, dei gamberetti, dei semi oleosi, no? Insieme alle varie spezie, questo giusto per dare così degli spunti per la gestione della preparazione dei frigoriferi in maniera più colorata e viva, no? Assolutamente. Ci siamo occupati del cervello, quello in alto, del secondo cervello, dell'intestino, ma anche ci occuperemo del cuore, perché sappiamo che quando il caldo sale la pressione tende a scendere. Consigli, lo anticipo perché molti di voi mi stanno scrivendo: la pressione è alta, la pressione è bassa, cosa devo mangiare, mi gira la testa, mi sento svenire. 800 24 00 24. Massimo, buongiorno da Macerata. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io dovrei affrontare un esame molto difficile quest'estate, e vorrei sapere, ecco, dei consigli per poter studiare in maniera ottimale. Che esame deve fare, Massimo? Devo fare l'esame di abilitazione per diventare avvocato. Bello tosterello. Allora, sì. E studiare con il caldo, ci sono persone che fanno molta fatica. E Massimo, immagino che oltre alla tensione, il caldo, la fatica, l'accumulo di stanchezza, professor Iannoccari. E qui, ecco, è opportuno pianificare bene lo studio prima di cimentarsi, perché come dicevo all'inizio, tra le funzioni che calano prima c'è proprio l'attenzione e la concentrazione, che sono le gambe che utilizziamo per studiare. Quindi i consigli quali possono essere? Intanto pianificare bene lo studio in modo tale da averne un tanto al giorno e non accumularlo alla fine. Poi rispettare i cicli di attenzione, in quanto noi sappiamo che dopo un periodo di 20-40 minuti la nostra attenzione cala fisiologicamente, per cui rimanere sui libri cercando di riprenderla forzatamente è controproducente. Per cui ogni 20-40 minuti, quando sentiamo che i nostri pensieri ingombrano la mente e ci sollevano dallo studio, alziamoci, facciamo un giro, qualche minuto, distraiamoci e poi riprendiamo. Poi, se è possibile, studiare la sera, quindi sciogliere i concetti più complessi la mattina mente fresca, ma ripassarli e apprenderli bene la sera. Perché si fissano di più? Durante la notte. Per cui il sonno aiuta a consolidare i ricordi appresi durante la giornata, soprattutto quelli al termine della giornata. Quindi questo può aiutare molto a fare un lavoro di memorizzazione mentre noi siamo impegnati piacevolmente a dormire. Poi dormire un buon sonno, questo è molto importante, per cui cercare di avere una temperatura adeguata all'interno della stanza. Certo. In quanto il caldo porta, diciamo, a volte dei disturbi nel sonno. Invece, se noi tuteliamo questo aspetto della giornata, il nostro cervello ne beneficia. Formare ore il ricordo degli esami, quindi anticipare in modo immaginativo, creativo, come sarà l'esame, quali potranno essere le domande e quindi fare delle risposte. Allora, questi consigli li abbiamo dati al nostro ascoltatore che si sta preparando per un concorso molto difficile, ma vanno assolutamente bene anche per i maturandi, per i ragazzi che affrontano gli esami all'università, per noi quando dobbiamo mandare a memoria magari un incontro, una conferenza, un testo. 800 24 00 24, è vero, cerchiamo di sottolineare i vantaggi dell'estate per godercela e del caldo. Uno dei vantaggi è che, l'abbiamo anticipato, fa, quando il caldo sale la pressione scende. In linea con noi abbiamo il professor Piero Montorsi del Centro Cardiologico Monzino di Milano. Professore, buongiorno. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Questo può essere un vantaggio, gli ipertesi dovrebbero essere riconoscenti all'estate e al caldo, perché il caldo funziona un po' come una pastiglietta. Assolutamente, noi cardiologi siamo veramente felici di vedere i pazienti in questo periodo, perché anche l'iperteso più refrattario, più tenace, durante l'estate si ammorbidisce e la visita è molto più facile anche da parte nostra. Quindi fate bella figura. Facciamo bella figura, però l'iperteso deve tenere a mente una cosa, perché c'è un po' la tentazione, appena scende un po' di pressione con le misurazioni che l'iperteso fa a domicilio, di chiedere, perlomeno all'inizio, ma qualcuno invece passa già le manovre di fatto, riduce la terapia. Sì. Che non è una grande idea. Io direi di quando succede che la pressione va giù durante i mesi caldi, chiedere sempre al medico curante che cosa fare. In linea di massima, un principio che può essere vero un po' per tutti è che se la pressione è senz'altro un pochino più bassa dell'abituale, ma il paziente non ha disturbi intesi come stanchezza, facile affaticabilità, estrema prostrazione, mantenga la sua terapia, perché l'iperteso deve ricordare che poi dopo, in situazioni di stress che possono capitare durante la giornata normale, l'iperteso ha un rialzo di pressione molto più brusco rispetto al normoteso, e allora se nel frattempo ha ridotto la terapia, c'è poi il rischio che in una colluttazione, in un discorso, in un esercizio fisico, la pressione rialzi in maniera molto energica e gli possa dare disturbi. Quindi, se è sotto i 120 di pressione massima, che è quella che conta, e molti riportano la minima, ma è la massima che quando scende che dà stanchezza, si può ancora prendere la propria terapia o provare un po' a ridurla. Se incomincia a essere stabilmente sotto i 120, 110, 100, allora bisogna veramente fare riferimento al medico, perché si può anche temporaneamente interromperla. Fa caldo, la pressione scende, ma chi ha già la pressione bassa, che cosa può fare? Professor Montorsi. Gli ipotesi, così come si definiscono, sono delle pellacce, perché di pressione bassa comunque non si muore, si vive male ma non si muore male, o comunque meno bene. Quello che devono fare, non c'è molto da fare, devono cercare di evitare le situazioni che possono accentuare questo problema, e durante l'estate ce ne sono parecchie. Quindi non cercare di stare attenti a disidratarsi durante l'estate, perché uno suda di più, e quindi bere moltissima acqua, almeno un litro e mezzo, almeno gli 8 bicchieri da cucina pieni al giorno. Cercare, se uno suda molto, di reintegrare anche i sali minerali che si perdono, quindi il cloruro di sodio con i vari integratori minerali che vanno benissimo. Cercare di mangiare magari poco ma un po' più spesso nella giornata, ma comunque mangiare sia un po' di carboidrati che anche un po' di proteine, il bere l'abbiamo detto, dormire ben un certo numero di ore durante la notte bene, attenzione all'alcol che può dar fastidio anche in termini di vasodilatazione, qualche rimedio un pochino al di fuori di questo per proprio in situazioni un pochino più difficili, mangiare un po' più salato e qualche volta qualcuno consiglia l'uso della liquirizia. Sale e liquirizia sono rimedi che impiegano un po' di tempo innanzitutto a funzionare, però il funzionamento è un po' complesso. Attenzione, voglio solo ricordare che c'è una sindrome dell'ipertensione legata ad un eccesso di liquirizia, quindi qualche caramellina sì, ma non bisogna esagerare, adesso si passa dalla parte opposta. Grazie professor Montorsi per essere stato con noi. Arrivederci, a presto. Buona giornata. Idee, immagini, suggerimenti, consigli, ma soprattutto foto che ci state descrivendo all'800240024, capaci di regalarci il refrigerio. Luca, buongiorno da Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei, Luca. Salve, io sento la trasmissione, sono complimenti. Sono un ingegnere, lavoro nel settore termotecnico, cioè anche di impianti di condizionamento. Bene. Ecco, io volevo dare dei consigli in merito. Bravo. Allora, non tenere troppo bassa la temperatura. Certo. Cioè, la temperatura consigliata sono 27 gradi e non meno, diciamo. Se, e una differenza inferiore a 8 gradi tra l'esterno e l'interno. L'interno, ok. Quindi non meno di 27 gradi. Secondo esatto. consiglio? Secondo consiglio, perché? Perché l'estate è estate, il nostro corpo deve sentirlo il caldo, non avere sempre la temperatura uguale estate e inverno. Assolutamente, lei sfonda una porta aperta. Il dottor Speciani anche su questo è assolutamente è d'accordo. E poi, ditelo anche alle farmacie, agli esercizi commerciali. Molte volte si entra in una farmacia e ci si ammala perché ci si entra in una farmacia, una temperatura dell'aria bassissime. Allora, sto facendo un po' una battuta, però tendenzialmente è vero. Luca, quindi non troppo bassa, un altro consiglio o un'immagine? L'umidità. L'umidità, controllare, tenere l'umidità giusta, quindi 50% di umidità, 27 gradi, e abituarsi a quelle condizioni, perché è estate, il corpo deve sentire, i dottori presenti saranno d'accordo con me. Grazie, grazie Luca per aver chiamato 800 24 00 24, dottor Speciani. Un altro, se vogliamo, vantaggio del caldo è che diventa, e può diventare, un alibi per i pigri e quindi per molti di noi che, come dimostra la ricerca, preferiamo lo sport vederlo in poltrona. Secondo una ricerca firmata dall'Osservatorio Salute AstraZeneca in collaborazione con ISPO, gli italiani sanno che fare attività fisica fa bene alla salute, 38%, e migliora l'umore, 25%. Ma nonostante questo, i nostri connazionali rinunciano a causa della scarsità di tempo, 42%, della pigrizia, 18%, e di qualche anno di troppo, 16%. Più sportivi gli uomini laureati e i residenti nel nord-est, mentre il record di sedentari si registra al sud, tra gli over 54. Gli sport più praticati, se si esclude la camminata, 46%, sono il nuoto, 14%, la palestra, 11%, e il calcio, 11%. Indipendentemente da quale sport si preferisca, l'importante è guardarlo in TV. Quasi un italiano su due lo segue sui media settimanalmente e uno su tre almeno ogni tanto. Circa uno su cinque lo guarda almeno occasionalmente anche dal vivo. Insomma, sportivi sì, ma meglio se seduti in poltrona. Dottor Speciani, se il caldo ci taglia le gambe, per chi fa sport questo è un problema, cosa possiamo fare? Ah, intanto mi viene in mente quello che sto facendo io in questi giorni, tra l'altro devo dire si incontrano mucchi di persone al mattino presto, questo d'inverno non succede, adesso invece quando si va a correre, a muovere, anche solo a camminare, incontri nei parchi milanesi persone che non ti aspetteresti alle 6, alle 6 e un quarto, alle 6 e mezza, quindi anticipare sicuro, assolutamente l'orario di allenamento e occasioni di incontro ce ne sono? Ma perché poi diciamolo anche che il caldo non è che faccia così male, nel senso che voglio dire, il fatto che ci si sia un pochettino più, chiamiamolo, con un maggiore contatto tra pelle e aria, mm-hmm, è un dato positivo. La nostra natura fa sì che da qualche centinaia di migliaia di anni anche i nostri ormoni, le nostre cose sono fasate al fatto che l'estate sia un elemento positivo. Non è casuale che la massima parte delle nascite dei bambini è proprio in primavera, proprio perché dal punto di vista storico significa che sì, c'è poi una stagione tiepida per affrontare la nascita e i primi mesi di vita, quindi l'estate è un momento in cui gli ormoni sono come dire evoluzionisticamente coordinati per dare il meglio di sé anche nelle parti relazionali, diciamola così, dai. Ecco, diciamo che è un'estate, l'estate è una stagione intrigante, esatto. Ecco. E questo, c'è anche un bellissimo studio, a parte quello sul movimento che abbiamo appena sentito, fatto recentemente dall'University of Yale americana, in cui proprio spiega come il temperamento latino e il temperamento nordico sono diversi proprio grazie all'azione del sole su una parte del cervello che è l'insula, che è una parte importantissima, no? Che quindi sembra che la modalità comportamentale sia anche legata proprio a questo sole che un pochettino ci affatica durante l'estate, ma che ormai fa parte del nostro DNA. Però, dottor Speciani, poi c'è tutto il resto, quindi. Lo so che c'è il resto. Fantastico. Dai, siamo qui tutti a parlare male del caldo, se non c'è no, sono io che faccio. Assolutamente, faccio noi abbiamo proprio fatto una puntata per dire non lamentiamoci, prendiamo il buono, anche perché quanto durerà questo caldo? Poco purtroppo, 800 24 00 24, rinfrescateci con le vostre immagini. Potete descrivercele in diretta, mandarle come state facendo al 349-238-6666. Ho un libro che voglio dare all'immagine più rinfrescante, quella che ci attiva di più, la sceglieremo insieme al professor Iannoccari. È un libro molto bello, Mindfulness di Attilio Piazza, per una mente amica, coltivare la consapevolezza, liberarsi dei pensieri negativi e scoprire la felicità anche a 40 gradi. 800 24 00 24, dottor Speciani, grazie per essere stato con noi. Grazie davvero, è sempre bellissimo stare insieme. Buona giornata, un abbraccio. Dentro la vasca da bagno, tra parentesi mi mette l'ascoltatore con l'acqua, cartolina della distesa del mare, musica del suo rumore, occhi chiusi, fantastico. Un'immagine, un'immagine rinfrescante. All'800 24 00 24 aspettiamo i vostri consigli, suggerimenti. Va molto forte, professore Iannoccari, i polsi sotto l'acqua quando ci sembra che il caldo sia eccessivo. Le immagini, come ci ha raccontato la nostra ascoltatrice, che si fa avvolgere dal caldo e ne pensa più, gli sottolinea i vantaggi piuttosto che la fatica che procura. Richieste di aiuto, ce ne sono tante. Un'ascoltatrice mi scrive: aiutatemi, lavoro 8 ore sedute, i miei piedi sembrano 2 palloni, visto che mi tocca lavorare, c'è qualche rimedio? Grazie Silvia. In linea con noi abbiamo il dottor Luca Voledo, naturopata. Buongiorno dottor Voledo. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Possiamo subito occuparci dei piedi di Silvia? Assolutamente sì, ci sono tantissimi rimedi naturali che possono venire in aiuto in questo periodo. In un caso particolare come quello di Silvia, quindi di gambe gonfie, doloranti, che hanno bisogno di refrigerio, si possono usare per esempio gli oli essenziali, sì, che sono la quintessenza, diciamo così, delle piante, dei fiori, il profumo concentrato, una preparazione che suggerisco spesso, molto pratica da preparare, è quella di utilizzare uno spruzzino come quelli che si usano per le piante, ovviamente sì, pulito, si riempie di acqua di rubinetto e si aggiungono alcune gocce di particolari oli essenziali dalle proprietà refrigeranti, abbassano proprio la temperatura corporea, in particolare possono essere l'olio essenziale di menta piperita o di eucalipto o anche di limone, alcune gocce di questi, anche di tutti e tre, si sbatte fortemente lo spruzzino, si mette in frigo e poi ci si può, lo si può utilizzare per spruzzarselo sul corpo, non solo sulle gambe, anche sul resto del corpo, facendo attenzione però a non esporsi poi al sole. Esporsi al sole senz'altro, ma soprattutto a non far entrare gli oli negli occhi, negli occhi, vicino alle mucose. Questo però dà una sensazione di refrigerio da provare, veramente immediata. Questo mi piace a proposito di immagini, perché ci sono delle immagini, professor Iannoccari, che si sentono proprio sulla pelle. Io non so se anche lei ha avvertito questa sensazione di freschezza. Io stasera a casa me la faccio. Mi ripete per favore, così rispondiamo anche a Carlo che voleva la ricetta. Menta piperita, allora acqua del rubinetto in uno spruzzino, in ben uno spruzzino pulito. Diciamo, dipende poi da quanto è grosso lo spruzzino, ma diciamo qualche goccia, 4-5 gocce di olio essenziale di menta, sì, piperita, così come di olio essenziale di eucalipto e di limone. Tutti e tre oli essenziali si comprano in erboristeria, in farmacia, certo, e voilà, e sono molto molto concentrati, si agita bene, si mette in frigo e una volta freddo si può usare. Attenzione che alcuni soggetti possono essere allergici agli oli essenziali, possono dare reazioni di irritazione. Per non sbagliare si fa una prova classica di sicurezza: si versa una goccia nell'incavo del braccio, la parte opposta del gomito, per capirci. Se non succede niente, andate tranquilli. Altre indicazioni, dottor Voledo? Ci sono anche, oltre agli oli essenziali, ci sono anche delle erbe che sì, rinfrescano, e rinfrescano la testa, l'intestino, la pelle. Certo, per quanto possa sembrare paradossale o addirittura controproducente, le tisane sono perfette anche in estate, non solo in inverno come quando abbiamo il raffreddore. Esattamente, quando fa freddo. Bisogna ovviamente scegliere quelle giuste, ma ce ne sono alcune che hanno effetti rinfrescanti e dissetanti molto forti, ed eventualmente si possono consumare tiepide o a temperatura ambiente. La mia preferita è facilissima, mi piacciono i rimedi facili, è la tisana di menta fresca. Si prendono alcune foglie di menta piperita, in questo caso perché la menta è un must per l'estate, si spezzano, si mettono in una tazza vuota e si versa dell'acqua bollente, si lascia raffreddare e si filtra, o si filtra prima poi si lascia raffreddare, si può mettere anche in frigo. Ne esistono moltissime di tisane, di melissa e verbena, anche queste rinfrescanti, di petali di rosa, di anice, tutte sì, erbe riconosciute per i loro poteri appunto rinfrescanti e dissetanti. Ne citerei però una molto particolare che in questa stagione assume un valore molto forte, che è quella di salvia, perché la salvia ha delle proprietà anti sudore, anti peridrotiche o antidiaforetiche, per dire due parolacce, vuol dire sostanzialmente sì, antisudore, funziona come un vero e proprio deodorante naturale e normalizza la produzione di sudore e riduce in parte anche il cattivo odore. Ovviamente il sudore è utile, anzi indispensabile, assolutamente, per abbassare. Però, e poi la salvia ce l'abbiamo nei nostri, esatto, balconi. Esatto, ne parlava prima mio amico Attilio Speciani, sono proprio, certo, le erbe che si possono avere sul balcone. Questa è proprio la salvia da cucina, si fa con le foglie fresche, acqua bollente, si lascia in infusione per un po' e poi si può utilizzare sia per bere, riduce proprio la sudorazione anche delle mani, le classiche mani sudate che in estate danno molto fastidio quando, certo, si stringono, ma anche con dei tamponi, garze, cotone, per praticare dei tamponamenti sulla zona da trattare molto interessata dalla sudorazione. Grazie dottor Avoledo per essere stato con noi, metteremo le sue indicazioni anche sulla pagina di Essere Benessere. Buona giornata. Molto volentieri, grazie a voi, buon pomeriggio. Professor Iannoccari, un minuto per raccomandare o suggerire a chi ci sta ascoltando degli esercizi magari per il weekend per rinfrescare la mente e quindi per rilassarsi meglio. 5 semplici esercizi per fare un po' di moto mentale. Allora, prendiamo un numero, partiamo da un qualsiasi numero e contiamo rapidamente all'indietro per 20 numeri, saltando di 2 in 2. Ad esempio partiamo da 40 e facciamo 40, 38, 36, 34, eccetera, eccetera. E in questo modo stimoliamo la concentrazione e la velocità di elaborazione. Poi cerchiamo, se siamo al mare, i vetrini, oppure in montagna, le pietroline colorate. Questo aiuta a sviluppare la nostra attenzione visiva. Oppure possiamo canticchiare le canzoni proposte dalla radio e cercare di memorizzarne il testo. In questo modo alleniamo la memoria verbale. Leggiamo e memorizziamo i nomi dei negozi, dei locali che stiamo frequentando, dai quali passiamo davanti, e in questo modo aiutiamo la memoria visiva. E in ultimo chiacchieriamo con i vicini di ombrellone o con i compagni di sentiero, così stimoliamo l'affluenza verbale e trascorriamo piacevolmente il nostro tempo. E al nostro ascoltatore o ascoltatrice che ci ha lasciato l'immagine della vasca da bagno, che è quella che è piaciuta di più al professor Iannoccari, mindfulness per una mente amica. Professore, grazie, grazie a voi che ci avete seguito, che mi avete scritto, 349-238-6666, continuate a farlo ora, ma soprattutto trasferitevi sul nostro profilo Facebook. Buona giornata, buon weekend, a lunedì.